Allora, siamo al telefono con Gianluca, bassista dei Caia Calma, che definiamo anche amico di The Festival's Backpack. Ciao Gianluca. Ciao ragazzi, ciao. Intanto grazie mille, come sempre, della disponibilità. Io penso che per noi sarà la terza o quarta intervista che ci rilasciate, ma a noi va benissimo così, vi intervisteremo anche tutti i giorni, quindi... Ma noi non ci stufiamo mai, ci fa piacere, quindi quando volete per me è sempre un piacere. Ok, allora l'anno scorso avete rilasciato Giovani Ancora nel 2020, in mezzo a questo periodo che per il settore musicale, un po' per tutto il mondo, possiamo dirlo tranquillamente, è una merda. Come è andato il vostro 2020 musicalmente parlando? Musicalmente parlando mi attacco quello che dice te, un po' una merda, nel senso per noi, come penso un po' per tutti quanti, partendo parlando dalle band, musicisti, a chi lavora nello spettacolo, l'agenzia Booking, chi sta dietro l'organizzazione proprio del concerto, chi monta e smonta i palchi, insomma un po' tutti quelli che lavorano intorno al mondo dello spettacolo, della musica, dell'arte in sé. Penso sia stato un anno da dimenticare il prima possibile, perché insomma, non si è potuto fare niente, tuttora non si può fare nulla. Grandi linee guida, grandi novità e buone notizie in vista futura ce ne sono poche, e quindi è tutto un po' incerto. L'anno scorso è stato un anno che per noi che siamo abituati a fare concerti su concerti, è stato un anno dove, a parte il Diluvio Festival, l'estate, dove ci siamo visti anche con voi, e la vostra data, diciamo, noi non abbiamo fatto nulla a livello di live, e quindi è stato un anno veramente, veramente strano. Vabbè, se togliamo poi effettivamente gennaio e febbraio, prima del lockdown. Ecco, tra l'altro, noi, come penso, il 6 marzo dell'anno scorso doveva esserci una maxi festa annunciata con un sacco di ospiti a Milano, e poi è saltata proprio all'inizio del lockdown, estate, quindi è stata una bella botta. E pensavamo dovesse finire lì, poi invece. Sì, ci aspettava tutti 15 giorni dopo di poter rifare la cosa e rimetterla in pista, invece un anno e qualche mese di distanza siamo ancora qui. A proposito di questo tema, noi settimana scorsa siamo stati a Roma per i Bauli in piazza, e una delle cose che ci hanno riportato varie persone che abbiamo intervistato è che comunque problemi nel mondo musicale, soprattutto quando si parla di etichette indipendenti, piccoli locali, sono problemi pregressi. Secondo te, da artista, da musicista, quali sono i problemi pregressi nel mondo degli eventi musicali, e cosa dovrebbe cambiare, ecco? Ma ti dico la mia idea, poi non penso, cioè questo è il mio pensiero di Gianluca, però penso che sia sbagliata un po' la cultura della musica. Cioè, mi spiego, facendoti un esempio, nel senso, quando tu vai in giro, parli con le persone che non sono appassionate di musica, non fanno parte del nostro ambiente, e tu dici che suoni, la prima cosa che ti chiedono è: ah sì, e che cover fate voi con la vostra band? Cioè, questo ti fa capire come fare musica da indipendenti, fare musica se non vieni preso sotto l'ala protettrice di qualcuno e spinto nei canali giusti e messo nelle posizioni giuste, è molto difficile. E questa cosa è difficile per noi band artisti che cerchiamo in qualche modo, voi lo sapete bene perché ci siamo visti a più di un concerto nostro o di altri amici, quindi è difficile per noi, è difficile poi per chi cerca comunque di supportare e di dare voce anche a questo tipo di musica, perché io penso a un locale che comunque deve sostenere delle spese, deve pagare degli affitti, deve pagare magari il fonico, la band che viene a suonare, e ovviamente il movimento di pubblico tante volte magari non è altissimo, nel senso che se è paragonato magari certe tipologie di eventi, certe tipologie di spettacoli, il movimento di pubblico non è enorme, quindi penso che rientrare nelle spese, starci dentro in tutta questa cosa sia abbastanza difficile. Una situazione come quella della pandemia ha sicuramente dato una botta forte a tantissimi, perché abbiamo sentito di tanti posti che hanno già chiuso, mi vengono in mente, non so, il Circolo di Bol, Serraglio, posti di amici dove siamo stati tante volte, e tanti che sicuramente ora mi sto dimenticando, e quindi sicuramente è difficile. Io penso che dovrebbe proprio cambiare dall'alto un po' l'idea di concezione di musica, nel senso che dovrebbe venire data l'opportunità, non ti dico un po' a tutti, perché un po' a tutti è generico, e ovviamente un po' di meritocrazia, un po' di qualità ci deve essere, secondo me, Mauro, e penso che sia sacrosanta. Però trovo assurdo che, non lo so, io non ascolto tantissimo la radio, solitamente la musica nella nostra ascolti... No, esatto, però esatto, tranne la vostra. Però vabbè, solitamente la musica che ascolto vado a cercarmela, quindi Spotify piuttosto che insomma ricerca un po' più mirata. Quando capita di mettere la radio, non lo so, l'estate che ti vai in vacanza e dopo 10 ore di macchina sei stufo di ascoltarti Spotify, ti metti la radio e ti rendi conto che gli artisti che ti fanno sentire, i pezzi che ti fanno sentire sono sempre i soliti 5-6. E quindi capisci che questa cosa veicola un po' l'ascolto dell'ascoltatore medio, no? Io tante volte mi sono ritrovato a dire magari anche ai ragazzi, chiacchierando così, cioè se le radio, se chi comunque propone musica in maniera un pochino più importante desse anche voce a qualcun altro, io penso che ne gioveremmo un po' tutti, non solo noi artisti, che magari avremo più pubblico, più date, ma anche proprio i gestori dei locali, chi organizza i festival, chi in questo mondo ci lavora e ci mette entusiasmo, ci mette sacrifici, ci mette sudore per stare in piedi. E quindi secondo me andrebbe cambiata proprio un po' l'idea del fare musica, di cosa voglia dire fare musica, di cosa voglia dire scrivere i dischi in saletta, prendere il furgone e caricarlo, andare a suonare. Cioè tutto quell'aspetto lì andrebbe secondo me valorizzato un po' di più. Sono io, sei tu, o siamo tutti e due. Prendiamo fiato tra fabbriche, strade buie. Speravo che fossi tu, ma in fondo siamo in due. Prenderemo ai resti delle vecchie paure. Provo a respirare, ma ho venduto i polmoni. Mi avevi promesso risultati migliori, che avrei trovato il posto giusto nel mondo, dove dare tutto e poi morire tra i fiori. Prestami una casa senza chiedere chi sono, prestami anche i debiti, mi sentirò umano. Vieni a svegliare quando avrò toccato il fondo, recuperami a pezzi prima della fine. Ma ti sorprenderai nel vedermi sempre uguale. Sempre qui, non ci faremo trovare. Sono io, Adesso passiamo appunto a parlare un po' della vostra musica, perché è appena uscito Altalene, che è un nuovo singolo. Quindi la domanda è un singolo che anticipa l'uscita di qualcos'altro? State già lavorando a un EP, un album, qualcosa? Ci puoi anticipare qualcosa? Allora sì, ve lo posso dire volentieri. Allora Altalena sarà il primo singolo di un nuovo disco di cui non sappiamo ancora in realtà data di uscita e dettagli vari, però ci stiamo lavorando, lo stiamo ultimando, e Altalena è appunto il primo singolo che abbiamo deciso di far uscire. A livello di sonorità, secondo me è un pezzo un po' atipico, ma che a noi piace molto, ci rappresenta molto, e quindi per questo abbiamo deciso di uscire con Altalena. Il disco ovviamente avrà poi i soliti pezzi alla cara calma, quelli che piacciono, cioè quelli che pestano. Quelli che pestano, esatto, quelli che sono incazzati, anzi siamo, mi sento di poter dire che siamo tornati ancora più incazzati di prima, perché ci sono alcuni pezzi belli, belli aggressivi, quindi proprio pezzi da live, come piace a noi. E quindi il disco sarà appunto secondo me un buon mix tra Sulle Punte e Souvenir. Le belle cose di Sulle Punte, le belle cose di Souvenir prese, messe insieme e buttate lì in un disco. Dopo, questo è il mio punto di vista, spero la possano pensare così anche i nostri fan, i nostri ascoltatori. Beh, noi intanto Altalena ce lo siamo già ascoltati ed è molto carico, anche se c'è una punta di malinconia. Ecco, questa punta di malinconia è legata un po' al periodo passato, o comunque era già stato preparato prima il pezzo? Ma allora no, il pezzo, come tutti gli altri, sono stati tutti scritti durante la pandemia, in maniera un po' atipica, perché ovviamente tra i vari lockdown, zone rosse, tutto quello che è successo, abbiamo fatto molto, molta fatica a trovarci, e quindi abbiamo adottato un metodo di scrittura completamente diverso dal solito, quasi a livello postale, se così posso dire, nel senso che veramente abbiamo scritto pezzi tramite WhatsApp, tramite messaggi vocali. È stato molto curioso. Noi abbiamo la fortuna di avere Cesare, che ha lo studio di registrazione e vive lì. Ci siamo scambiati magari messaggi vocali con idee, cose, prova a fare questa roba qua, lui ti mandava il provino, lo provavi, lo giravi, cioè è stato veramente, veramente strano. Non è un pezzo legato al Covid, non è un pezzo legato alla pandemia, non parla di quello, anche se la vena malinconica potrebbe avere anche una chiave di lettura in quel senso lì, ci può stare, però ecco, non è stato scritto né quello né altri brani del disco scritti proprio con l'occhio rivolto a quel momento qua. Abbiamo preferito guardare avanti, cercare di pensare a quando si potrà tornare sul palco, quando si potrà tornare a suonare dal vivo, ed essere pronti per quello. Poi magari, non lo so, in maniera anche indiretta, una vena di malinconia piuttosto che di rabbia, piuttosto che di frustrazione si sentirà nel disco, e magari indirettamente anche noi, magari probabilmente l'abbiamo subita e l'abbiamo riversata nel disco, però ecco, non è stato scritto per pensando momento, a quello, no. Okay. Esatto. A proposito di concerti, adesso che sembra, anche se non si capisce bene come si possa fare dei concerti col coprifuoco alle 10, state programmando qualche data? C'è già qualcuno che vi ha contattato? Ma qualcosa in ballo c'è, qualcosa che bolle in pentola c'è, però siamo tutti lì sul chi va là, perché non ci sono certezze, ci sentiamo spessissimo con la nostra booking, con i ragazzi di To Be Agency, per cercare di capire appunto cosa si potrà fare quest'estate, ma purtroppo nessuno ha delle risposte certe, chiare da poterci dare. Noi comunque ci stiamo preparando all'eventuale, a qualsiasi tipo di possibilità, che sia un live alla cara calma in elettrico, anche se lo vedo abbastanza difficile. Stiamo buttando giù un semiacustico, insomma stiamo preparando qualsiasi cosa ci possa permettere di tornare a suonare, di tornare sul palco. Quindi voglia farci trovare pronti a questo momento, nella speranza che questa estate si possa fare. Parliamo invece di una cosa piacevole dell'album, almeno a mio avviso, che sono un fan, oltre che vostro, anche di Divi, che è alla produzione di quest'album. Com'è stato lavorare con lui, con Divi dei Ministri? Ma è stato... So che sarà banale perché tutti ti dicono così, che tutti ti dicono è stato bellissimo, ma però è stato veramente bellissimo, perché Divi è una persona con un entusiasmo enorme, con una presa bene enorme, ed è arrivato secondo me in un momento cruciale per noi e molto molto importante, perché abbiamo cominciato a lavorare con lui intorno all'autunno scorso, se non sbaglio, poco dopo l'estate, e comunque venivamo da un momento di lockdown, da un momento estivo dove avevamo voglia di comunque recuperare un po' i mesi persi, e Divi ha portato dell'entusiasmo e della voglia di fare, cioè un'iniezione veramente di positività di cui avevamo bisogno, perché al di là delle capacità tecniche dell'artista che è Divi, che io rispetto, tutti noi rispettiamo tantissimo, però è stato veramente positivo il suo apporto a livello di morale. Ha proprio preso le nostre quattro teste, le ha sbattute insieme e ci ha detto: bon, adesso ricominciamo. E quindi l'entusiasmo per noi, inizialmente non conoscendolo, e adesso siamo diventati molto molto amici, molto legati, l'entusiasmo, l'onore di poter lavorare comunque con un personaggio come Divi all'inizio ti dà carica. Lui è una persona veramente squisita, perché è una persona che dopo due volte che lo vedi ti sembra il tuo amico delle elementari, perché è di una genuinità incredibile, e quindi è stato bello, e è stato bello anche che si sia creata tra di noi un'amicizia, non solo un rapporto di tipo lavorativo, ma si è proprio creato un'amicizia. E quindi siamo molto soddisfatti. Fantastico, infatti non vediamo l'ora di ascoltare l'album. A questo punto, Gianluca, ti ringrazio tantissimo per la disponibilità. Ci ascoltiamo Altalene, l'ultimo singolo. Ti chiedo a te di annunciarlo, se vuoi, con un messaggio ai nostri ascoltatori. Va bene. Grazie ancora ragazzi di Radio Fujiko. Io sono Gianluca dei Cara Calma e questa è Altalene, il nostro nuovo singolo. Resto al coperto, il punto è quello giusto per giudicare senza mai attirare l'attenzione. Io non mi espongo, è più difficile sbagliare. Annuisco sempre, tu mi credi migliore. Vorrei trovare un modo per vincere le guerre. Vorrei trovare il giorno in cui non ti ho più fatto entrare. Ti dico che va tutto bene, anche se cado a pezzi, come nei parchi fanno le altalene. Anche se cado a pezzi, come nei parchi.